è stato l'esordio della deposizione dell'ex NAR Valerio Fioravanti, condannato in via definitiva per la bomba esplosa alla stazione di Bologna il 2 agosto 1980. Il processo è quello a carico di Gilberto Cavallini, neofascista che fece parte dei nuclei armati rivoluzionari e che oggi è accusato di concorso nella strage per la quale sono già stati condannati in via definitiva Fioravanti, sua moglie Francesca Mambro e Luigi Ciavardini. Se per lei, sul banco degli imputati nelle ultime tre udienze in corte d'assise a Bologna, non è applicabile l'etichetta di estremista di destra, come ha dichiarato, adesso anche la parola fascista diventa quasi di troppo. Valerio Fioravanti, 60 anni, è stato riconosciuto colpevole di 93 omicidi, compresi gli 85 morti della stazione di Bologna, e gli sono stati comminati 8 ergastoli, oltre a 134 anni e 8 mesi di reclusione. In libertà vigilata dal gennaio 2007, dal 18 aprile 2009 è un cittadino libero, e la sua carriera criminale inizia nella seconda metà degli anni 70, rievocando, come ha raccontato, l'iniziale militanza del movimento sociale e nelle organizzazioni dell'MSI, e di questo è stato proprio segretario giovanile a Monteverde. Di destra sì, dunque, ma il salto tra la destra extraparlamentare e lo spontaneismo armato avviene, secondo Fioravanti, non per una pulsione di estremismo fascista, ma accogliendo e trasformando in pratica terroristica il malcelato disprezzo dei vertici del partito. Ci chiamavano spontaneisti, intendendo che eravamo una conzaglia di narcoidi senza un progetto, raccontato Fioravanti, secondo cui prese questo termine e ne fece la linea politica dei NAR, che sarebbe stata quella di non avere appunto un progetto a media e a lunga scadenza. Non volevamo piegarci davanti al capo del fascismo di allora, Stefano Delle Chiaie, ha detto Fioravanti, e ribadendo giudizio negativo sul leader di Avanguardia Nazionale, estende considerazioni altrettanto negative sull'ordinovista Massimiliano Facchini e su ideologi neri come Paolo Signorelli. Per noi la regola è che se uno aveva più di 20 anni e non era mai stato arrestato, c'era qualcosa di strano, ha dichiarato in udienza, alludendo a rapporti con forze dell'ordine. In altre parole, molti dei neofascisti più anziani li ha conosciuti in carcere, Signorelli compreso, ma in base a quello che dice oggi avevano un pedigree criminale troppo superficiale per non avere legami con uomini in divisa o peggio ancora servizi segreti, con i quali, ha detto ancora Fioravanti, loro non avevano contatti. La garanzia di purezza militante, ha detto, va estesa anche al fratello Cristiano Fioravanti, a Francesca Mambro e a un altro leader dei NAR, Alessandro Alibrandi. Di Cavallini, però, non può dire lo stesso. Di qualche anno più grande era legato a principe della versione nera come Carlo Di Giglio, l'arbiere di Ordine Nuovo, e stupore ha destato il fatto che Cavallini sembrava più colpito dall'incriminazione per la bomba di Piazza Fontana a carico di Di Giglio e del medico mestrino Carlo Maria Maggi, poi condannato definitivamente per la strage di Piazza della Loggia, più colpito rispetto ai suoi camerati romani accusati del massacro di Bologna. Numerose sono state le domande della pubblica accusa del presidente della Corte d'Assise, Michele Leoni, sugli interscambi epistolari con Mario Tuti, accusato e assolto per la strage dell'Italicus, e sulla ferrea volontà di far evadere Pierluigi Concutelli, l'ordinovista condannato per l'omicidio del magistrato romano Vittorio Curzio. Non li conoscevamo, ha detto Fioravanti, e disconoscevamo la loro pratica politica, ma li ritenevamo degli sventurati, meritevoli di aiuto perché avevano agito su ordine di qualcuno che poi li aveva abbandonati. A maggior ragione, per Fioravanti, non c'è mai stato nessun rapporto con Licio Gelli, il capo della P2. L'unico ad averci avuto a che fare era stato Paolo Aleandri, il terrorista nero che fu tra i fondatori di Costruiamo l'Azione. Lui, Fioravanti, invece, mai, ma ha avuto parole non del tutto negative, nonostante rientri a pieno titolo tra i tramoni tanto osteggiati di Ordine Nuovo, per Franco Freda, colui che è stato riconosciuto dalla Cassazione responsabile della strage di Piazza Fontana, ma non era più processabile perché era già assolto da quell'accusa. A proposito di Freda, il Collegio degli Avvocati di Parte Civile ha chiesto l'acquisizione agli atti di una serie di documenti, tra questi una lettera scritta il 22 luglio 1980 da Mario Tuti allo stesso Franco Freda, in cui si considerava auspicabile una saldatura tra lo spontaneismo armato e il vecchio gruppo ordinovista. Infine, un'annotazione a proposito di Francesco Pazienza, l'ex consulente del direttore del SISMI, il fiduista Giuseppe Santovito. Le ultime due udienze hanno visto la lettura di due telegrammi consecutivi, il primo a chiedere che Pazienza, già condannato a 10 anni per i depistaggi alla strage di Bologna, fosse convocato in aula per depositare documentazione. Con il secondo, giunto una settimana fa, annunciava l'invio di quella documentazione, il cui arrivo è stato reso pubblico questa mattina, dopo l'apertura di una busta che conteneva due fascicoli rilegati da una spirale bianca. Ora i documenti saranno contati e censiti e poi saranno a disposizione delle parti. Il timore, tuttavia, è di trovarsi ancora davanti ad atti che possono tentare di sviare una volta di più il focus del processo, tanto che dei giorni scorsi Francesco Pazienza, intervistato dal Fatto Quotidiano, aveva attribuito la responsabilità della strage al dittatore libico Gheddafi.